Vedi? Salta al 3, vuol dire che le avevo tutte e due. Va bene, invece oggi siamo al 7, 8, 9. 9 giugno. Allora, 9 giugno. Allora, l'origine di questa lezione ve l'ho già spiegata, ma la ripetiamo così rimane agli atti. Una mia solerte e diligente allieva, leggendosi questo libro di Foucault dal titolo Bisogna difendere la società, chi ti ha detto di leggerlo questo libro? Te lo No, sei fatto per l'ho conto letto tuo? io, sì. Era una tua, diciamo, lettura, non è che ve l'ho consigliato io a... No, dopo Ibáñez ho cercato qualcosa di Foucault che non fosse le parole e le cose. Certo, hai trovato questo, va bene. Allora, quindi Marta ha trovato cosa di cui io mi ero totalmente dimenticato, non l'avevo neanche registrata nel mio cervellino, ha trovato nelle ultime pagine di questo libro il termine omeostasi. Allora, questo ha determinato, questo mi ha fatto accendere una lampadina nella testa, e quindi negli ultimi 15 giorni ho impostato una ricerca che è connessa con i temi del corso, che però è soltanto agli inizi, che però vi comunicherò, insomma, e di cui vi metterò a parte perché può darvi qualche idea utile per voi. La ricerca è diciamo, la domanda da cui sono partito è: ma c'è una qualche relazione tra l'analisi, cioè tra la proposta degli ultimi anni della vita di Foucault, diciamo, di indagare la cosiddetta biopolitica o il biopotere e i temi collegati con la costellazione culturale dell'uomo artificiale, insomma, dal robot all'androide al cyborg. Allora, la risposta non ce l'ho ancora, però ci sto lavorando. Per farvi capire come ci sto lavorando, quindi semplicemente direi che devo preliminarmente cercare di capire che cosa, diciamo, che cosa significa, quali sono le coordinate generali e perché ci interessano dal punto di vista della, perché ci possono interessare dal punto di vista diciamo, dell'indagine sulle categorie culturali, culturali, teoriche e pratiche collegate al tema dell'uomo artificiale. Quindi, diciamo, la lezione di oggi sarà dedicata a un rapido tentativo di lettura dei temi della biopolitica foucaultiana in relazione all'uomo artificiale. Cominciamo con le fonti. Allora, qui non ci sono tutte le fonti, però. Allora, i due termini collegati, biopolitica e biopotere, compaiono, a quello che ne so, per la prima volta in un libro pubblicato da Foucault postumo, cioè quando era morto, e che si chiama La volonté de savoir, La volontà di sapere. Il libro esce nel 1984. No, no, cosa dico, scusate, una stupidaggine, no, che postumo, questo esce, sono gli altri che sono postumi, questo esce che Foucault è ancora in vita, No, cancellate tutto, accidenti, Allora, il libro esce nel 76, quindi ben 6 anni, ben 8 anni prima che Foucault muoia, quindi figuriamoci. Allora, La volontà di sapere è il libro che inaugura l'ultima parte della ricerca foucaultiana dedicata alla sessualità, al tema della sessualità come dispositivo di sapere e di potere. Questa impostazione non è nuova per Foucault e risale, se non alla storia della follia, perlomeno alle parole delle cose. Però il modo in cui lui la articola, addirittura in questo volume, nel volume La volontà di potere, poi però, se non vado errato, questo è l'ultimo libro pubblicato da Foucault in vita, poi gli altri sono posti. Perché lui ci mette parecchio tempo per andare avanti, con questo doveva essere il primo. Quando esce questo libro nel 76 in Francia, nel 78 in Italia, addirittura c'è un piano dell'opera, una specie di storia della sessualità generale in 6 volumi, di cui però ne usciranno solamente altri 2, e questi 2 escono postumi, cioè lui fa in tempo a prepararli prima di morire nell'84, e quindi escono, il primo esce a ridosso della sua morte e il secondo l'anno dopo. Ma hanno titoli diversi da quelli che gli aveva dato qua, insomma, quindi addirittura comunque sono 7, sono 6, come dire, volumi che sono. La volontà di sapere, quindi la sessualità come, noi possiamo dire categoria culturale, il termine che usa Foucault è dispositivo, che è un termine chiave, che però è, su cui non voglio entrare adesso, c'è un mio allievo del dottorato che sta facendo una ricerca triennale sul termine, sul concetto del termine di dispositivo in Foucault, perché è una cosa molto complicata. Comunque, il libro parte da un approccio polemico verso l'impostazione sui temi del sesso, sia della psicanalisi, sia della cultura di sinistra dei tempi di Foucault stesso. Foucault polemizza contro l'idea che la sessualità abbia, il sesso e la sessualità abbiano come caratteristica principale nella società capitalista sviluppata quella di essere repressi. La questione della repressione della sessualità è una impostazione fondamentalmente freudiana, ma Foucault propone di ribaltarla e dice esattamente il contrario. Lui dice nella nostra società il sesso non è affatto represso, anzi se ne parla, diciamo, sin troppo, o l'imperativo è parlare del sesso, riflettere intorno al sesso, commentare il sesso, mettere il sesso al centro all'emergenza allora, per fare questo, per spiegare le ragioni per le quali succede questa cosa, questo è uno dei tanti rovesciamenti che è l'ultimo grande rovesciamento che Foucault tenta nell'ultima parte, negli ultimi anni della sua vita. Per fare questo, quindi, lui tenta di fare, come sempre, utilizza questo approccio che noi ingenuamente supponiamo che sia storico, invece è un approccio che lui chiama genealogico, cioè la riscoperta delle condizioni per le quali matura un certo cambiamento di mentalità, o come dice, secondo il termine introdotto nelle parole delle cose, di episteme, cioè di costellazione culturale in generale, parte ovviamente dall'antichità classica, e nei 2 volumi successivi che verranno pubblicati, La cura di sé, no, L'uso dei piaceri e La cura di sé, pubblicati postumi, ripeto, continua questa cosa. Nell'ultimo capitolo della volontà di sapere, cioè l'ultimo capitolo della volontà di sapere, che è il più breve, no, tranne il primo che è il più breve, insomma, che insieme con il primo capitolo è il più breve, si chiama Diritto di morte e potere sulla vita, ed è, a mia conoscenza, il primo testo in cui a stampa, in cui su di un libro compaiono i termini biopolitica e biopotere. Bisogna dire che però nello stesso anno Foucault ha cominciato, dall'anno prima credo, dall'anno o da due anni prima, non me lo ricordo, ma no, da parecchio tempo, dal 1970 Foucault sta tenendo dei corsi al Collège de France, corsi che durano all'incirca un semestre o meno, corsi che non comportano esami, cioè sono il Collège de France è l'istituzione culturale più era ed è l'istituzione culturale più insomma eminente e più importante della Francia, vengono chiamati a far parte di questo collegio i nomi più importanti della cultura francese. Foucault ci arriva relativamente nel 70, è nato nel 26, quanti anni ha nel 70? Ne ha 44, giovane devo dire, credo che Lévi-Strauss si sia graduato più tardi di lui, a una età successiva. E dunque chi fa i corsi, cioè chi fa parte del Collège de France deve tenere dei corsi più o meno semestrali con cadenza settimanale, senza obbligo di esame, quindi che non come dire, totalmente disinteressati, cioè uno va lì e li sente solo per andare a sentire queste grandi menti. Questi corsi non danno luogo a pubblicazioni, certo parecchi dei temi di questi corsi poi diciamo trasmigrano i temi dei primi corsi in alcuni libri successivi, ma in gran parte sino al corso del 74-75, 1, 2, 3, 4, 5, sino al quinto corso insomma, in realtà Foucault rielabora dei temi che aveva già trattato nei libri pubblicati in precedenza, quelli dopo Le parole e le cose e l'archeologia del sapere, e cioè i due più famosi, che sono Nascita della clinica e Sorvegliare e punire. Tutti i temi, cioè tutti i libri, Nascita della clinica, Sorvegliare e punire, nei quali Foucault tenta di descrivere quello che lui chiama il dispositivo disciplinare della società. Cioè sempre con questa idea che le relazioni di potere non siano puramente di vertice, puramente istituzionali, ma siano siano innervate dentro la società, cioè rappresentino una serie di rapporti sociali quotidiani. Questo è il suo primo punto di vista sulla questione del potere. Secondo, che nessuna categoria epistemologica, quindi nessuna categoria che riguarda il sapere, sia immune da un rapporto con il potere, cioè che i rapporti di sapere siano intrecciati sempre strettamente con i rapporti di potere. E l'esempio che Alun per vari anni lui insegue per tentare di spiegare queste due cose è quello dei dispositivi di disciplina, cioè i dispositivi che nascono più o meno a ridosso o contemporaneamente alla società capitalista, insomma con la nascita del capitalismo, ma su cui lui dà una impostazione che si allontana sempre di più anno dopo anno da quella classica di Marx che distingueva tra struttura e sovrastruttura. In pratica lo sforzo di Foucault è quello di dimostrare che non c'è fino dall'inizio nessuna differenza fra la cosiddetta struttura economica e la cosiddetta sovrastruttura politico, istituzionale, eccetera, eccetera. Perché c'è fino all'inizio questo intreccio di sapere e di potere, quindi gli effetti che questa idea di dispositivi generali. E però insomma lui praticamente in Sorvegliare e punire, per esempio, c'è l'esempio famoso del panopticon diciamo di Bentham, cioè il modello architettonico architettonico pratico sociale della, come dire, prigione con tutte le celle disposte in circolo e la torre del guardiano che sta in mezzo, in modo che ogni prigioniero sia visibile da questo guardiano centrale che, voltandosi in tutte le direzioni, può vedere dentro le celle, mentre le celle non possono vedersi l'una con l'altra e non possono comunicare, che sarà poi, insomma, diventerà famosissimo dopo. A partire dal corso del 1975-76 vengono di così, ma in genere vuol dire, 76 vuol dire che il corso è fatto nel 76, perché nel 75 è solo l'anno. A partire dal corso del 1976, che si intitola Il faut défendre la société, virgolette, bisogna difendere la società, chiude virgolette, quindi non è il titolo, è la citazione di una frase che lui è. Il corso di questo anno rappresenta una svolta. Adesso finché era vita Foucault noi non disponevamo di questi testi, e questi c'erano solo le persone fortunate che l'avevano sentito in Francia, che avevano assistito da un corso all'altro, c'erano parecchi aficionados che lo seguivano tutti gli anni, più qualcuno che cambiava. A partire dalla sua morte tutti questi testi sono stati, devo dire, con un lavoro di grande accuratezza, i corsi sono stati sbobinati e sono stati corso per corso confrontati con dei manoscritti che Foucault preparava per ogni singola lezione, perché lui era molto più diligente e più preciso di me, quindi per ogni lezione si faceva, che poi c'era dei manoscritti che poi a volte abbandonava eccetera, però quindi è per questo che bisognava, che per fare l'edizione critica si è dovuto confrontare la trascrizione dei nastri. C'è un certo punto in questo corso, nell'altro, non mi ricordo in quale, in cui lui dice, e c'è la frase registrata, dice: no, io non ho nulla contro questi dispositivi, erano i primissimi anni che c'erano i registratori, la metà degli anni 70, c'erano i registratori portatili, insomma, portatili ben più grossi di questi, insomma. E lui dice: io non ho nulla contro queste nuove tecniche di registratori, c'è certo che parlare con tutte queste macchine intorno mi fa un po' impressione, perché c'aveva la scrivania che parlava, che era zeppa di cose più grosse di questo, ma erano i primi, credo, dispositivi a cassetta. Ripeto, il corso del 75 è un corso di svolta, perché a partire da questo corso l'argomento principale del corso di questo anno qua, di bisogna difendere la società, è il tema della guerra, che detto così non vuol dire un cazzo. Siamo un po' più specifici. In questo corso Foucault ci spiega come ci siano delle autonarrazioni all'interno della società che servono da autofondazione per una società, e lui ci mostra il passaggio di regime, cioè il momento in cui alcune di queste narrazioni cambiano totalmente di senso. Per esempio, nell'Inghilterra di dopo la dominazione germanica, di dopo la dominazione privata normanna, quindi dopo il 1160, dopo la battaglia di Hastings, quindi l'oppressione da parte degli anglosassoni, da parte dei normanni, poi le successive, e nel corso di quella che per Foucault rimane l'epoca che lui ha studiato di più, da un punto di vista filosofico e storico, che è il XVII secolo, che si potrebbe dire che è il vero secolo di nascita della modernità, sia in Francia che in Inghilterra, che in Germania, più o meno. Però nelle ultime due lezioni del corso, partendo proprio da questo tema, cioè dal tema della guerra e delle autonarrazioni fondative per una società della guerra, quindi con un approccio diverso da quello, però è lo stesso anno in cui compare la volontà di sapere, quindi nella volontà di sapere la prospettiva della biopolitica e del biopotere derivano dal discorso sul sesso e sulla sessualità. In For the Fund, la Société, derivano invece da questo discorso sulla guerra e sulla fondazione e sul razzismo, poi, perché poi lui ricava, siccome questa guerra è guerra intestina, guerra tra diversi settori della società che si autonominano razze ad un certo punto, la razza dei normanni contro quella dei sassoni, e poi si mescolano con le guerre di religione, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, la prospettiva della biopolitica compare quindi per la seconda volta in questo testo, nelle ultime lezioni, in quella del 17 marzo, quella del 17 marzo, nell'ultima lezione, che è quella in cui riassume il corso, e Hobbes ritorna fuori lo stesso concetto che era uscito fuori qua. E poi nei due corsi successivi a quello del 76 al Collège de France, di cui oggi per nostra fortuna abbiamo i testi, per fortuna delle nostre menti e per fortuna delle nostre tasche, perché costano questo meno, ma costano un occhio della testa questi libri. I due corsi successivi quindi sono quelli del 78 e del 79, in cui la prospettiva della biopolitica viene rielaborata forse meglio, sicuramente meglio e più ampiamente che non nella volontà di sapere e in Bisogna difendere la il corso del 78 si chiama sicurezza, territorio, popolazione, sécurité, territoire, population. Attenzione, perché sicurezza in francese sono due modi di dirlo, cioè sûreté e sécurité, questo è sécurité. Sécurité, territoire, population, in cui, rielaborando alcuni spunti del corso dell'anno precedente, su cui si dedica prevalentemente in questo volume, alla nascita del nuovo concetto di popolazione e quella che lui chiama la governamentalità, che è stata tradotta in italiano in vari modi, ma noi teniamoci governamentalità, è un neologismo un po' del cazzo, che deriva solamente dal fatto che in francese governo si dice gouvernement e governativo si dice gouvernemental. Se uno vuole, allora, siccome Foucault conia un sostantivo dall'aggettivo governamental e gli esce governamentalité. Ora, in italiano governamentalità è semplicemente un calco del francese, perché non c'è l'aggettivo governamentale in italiano. Noi dovremmo dire governatività se volessimo tradurre, però siccome nessuno lo usa. Qualcuno ha usato un altro termine, che non mi ricordo qual è, che qua c'è tutto in nota. Allora, questo è l'argomento del corso del 78. Che è quello che io conosco, perché poi c'è il corso del 79 che ahimè non conosco neanche io, che ha invece il titolo esplicito di Nascita della biopolitica. Siccome questo libro è attualmente non è disponibile, nel senso che è stato esaurita la prima edizione, io sto aspettando la seconda, ma in attesa che arrivi la seconda non posso dirvi nulla perché non l'ho ancora letto, quindi non so com'è. Attenzione, voi dite, ma i titoli, no, i titoli dei corsi sono tutti titoli dati da Foucault stesso nel corso, quindi sono titoli autografi di Foucault, quindi bisogna prenderli per buoni, insomma, no? Allora, però direi che, nonostante questo, abbiamo comunque tre testi già meditati, un po' predigeriti da Paronia, quindi penso che siano più sufficienti per fare un po' di lavoro. Allora io proprio partirei semplicemente leggendo i pezzi, le parti principali, per così capiamo anche Il testo, l'ultimo capitolo della Volonté de Savoir è il primo nel quale questa prospettiva della biopolitica compare e vedrete che probabilmente è anche la meno determinata, però per una serie di motivi è interessante perché intanto vediamo qual è il punto di partenza vero di Foucault. E siccome però questo è il testo più conosciuto sinora, è quello che viene più spesso citato quando si parla di biopolitica in Foucault. Questi due testi sono meno conosciuti perché sono i Cosa, Cosa e Pranzo, sono usciti dopo e quindi certamente gli studiosi li conoscono, però insomma diciamo nell'ambito più... Allora, io le prime due pagine ve le leggo praticamente tutte, forse anche un po' di più, perché, anzi, vi leggo le prime tre bene, perché è molto chiaro. Allora, il capitolo si chiama Diritto di morte e potere sulla vita. A lungo uno dei privilegi caratteristici del potere sovrano era stato il diritto di vita e di morte. Probabilmente derivava nella sua forma dalla vecchia patria potestas, latino, patria potestà, il potere del padre, che dava al padre di famiglia romano il diritto di disporre, virgolette, della vita dei suoi figli come di quella degli schiavi. Gliel'aveva data, poteva togliergliela, la vita. Il diritto di vita e di morte, come è stato formulato dai teorici classici, ne è una forma già considerevolmente attenuata. Fra il sovrano e i sudditi non si concepisce più che si eserciti in modo assoluto e incondizionato, ma solo nei casi in cui il sovrano si trova minacciato nella sua stessa esistenza. Una specie di diritto di replica, fa pure lo spiritoso. Se è minacciato da nemici esterni che vogliono rovesciarlo o contestare i suoi diritti, allora il sovrano può legittimamente fare la guerra e chiedere ai suoi sudditi di prendere parte alla difesa dello Stato. Senza, virgolette, proporsi direttamente la loro morte, gli è lecito esporre la loro vita. In questo senso esercita su di essi un diritto indiretto di vita e di morte. La citazione francese, la citazione è dal trattato di Pufendorf, De Jure Natura et Gentium, del diritto della natura e delle genti del 1734. Ma se uno di essi, dei suoi sudditi, si solleva contro di lui e infrange le sue leggi, allora egli può esercitare sulla sua vita un potere diretto. A titolo di punizione lo ucciderà. Così inteso, il diritto di vita e di morte non è più un privilegio assoluto, è condizionato dalla difesa del sovrano e dalla sua sopravvivenza. Bisogna concepirlo con Hobbes, come la trasposizione operata a favore del principe del diritto che ciascuno possiederebbe nello stato di natura di difendere la propria vita al prezzo della morte degli altri. Bisogna leggerlo così, come lo legge Hobbes. Mi sono dimenticato di leggere quel punto interrogativo che stava a pagina dopo, per questo non ho dato l'intonazione interrogativa a una frase che avrebbe dovuto averla. O bisogna vedervi un diritto specifico che appare con la formazione di quest'essere giuridico nuovo che è il sovrano? In ogni caso, il diritto di vita e di morte nella sua forma moderna, relativa e limitata, come nella forma antica e assoluta, è un diritto disimmetrico, non ha simmetria tra la vita e la morte. Il sovrano non vi esercita il suo diritto sulla vita se non mettendo in atto il suo diritto di uccidere o astenendosene. Rende manifesto il suo potere sulla vita solo attraverso la morte che è in grado di esigere. Il diritto che si formula come di vita o di morte è nei fatti il diritto di far morire o di lasciar vivere. Questa formula la ripeterà in numerose altre occasioni perché è il punto di partenza. Il diritto di vita o di morte del sovrano tradizionale, dalle società antiche, dal padre di famiglia, latino, probabilmente anche greco, ma diciamo è nel diritto romano che viene codificato meglio, sino ai sovrani del Medioevo e dell'inizio dell'età moderna, cioè ai principi, ai re, di fatto non si parla ancora di diciamo repubbliche, è il sovrano in senso personale che ha questo. In questi sovrani il diritto di vita o di morte è un diritto asimmetrico, non ha una simmetria, perché è un diritto di lasciar vivere la vita non la data Cioè, è vero che nella primitiva versione del padre per mio latino dice: ti posso togliere la vita come te l'ho data, così dice il padre al figlio ribelle, ti tolgo la vita come te l'ho data. Il sovrano non può dire esattamente la... così potrebbe dire anche Dio, che potrebbe, a cui si potrebbe anche lì diciamo attribuire una sorta di super patria potestas, insomma, perché è una di super padre Dio. Ma il sovrano non può dire la stessa cosa, quindi il sovrano può lasciare vivere il proprio suddito, non gli ha dato lui la vita, o può l'unica cosa che può dargli davvero è la morte. Ti do la morte, quindi c'è questa disimmetria, chiaro che qua o no? Dopotutto questo diritto era simbolizzato dalla spada. La spada, come voi tutti vi ricordate, è uno dei due simboli fondamentali della giustizia già nell'iconografia romana, cioè la bilancia e una spada. La giustizia in maniera bilanciata però implica una più diciamo, diritto di morte. E forse bisogna ricollegare questa forma giuridica ad un tipo storico di società in cui il potere si esercitava essenzialmente come istanza di prelievo, meccanismo di sottrazione, diritto di appropriarsi di una parte delle ricchezze, estorsione di prodotti, di beni, di servizi, di lavoro e di sangue in porto ai sudditi. Il potere era innanzitutto diritto di prendere, l'impostazione berlusconiana sulle tasse, grosso modo, no? Diritto di prendere sulle cose, il tempo, i corpi e infine la vita, sino a culminare nel privilegio di impadronirsene per sopprimerla. L'Occidente ha conosciuto a partire dall'età classica, ricordiamo sempre che l'età classica per Foucault è il XVII secolo in tardi. Questa è l'età classica. L'Occidente ha conosciuto a partire dall'età classica, quindi a partire dal 600, una trasformazione molto profonda di questi meccanismi del potere. Il prelievo tende a non esserne più la forma principale, ma solo un elemento fra gli altri che hanno funzione di incitamento direi io, di rafforzamento, di controllo, di sorveglianza, di maggiorazione e organizzazione delle forze che sottomette. Un potere destinato a produrre delle forze, a farle crescere e a ordinarle piuttosto che a bloccarle, a piegarle o a distruggerle. È chiaro? Dice Foucault, comincia a dire, a partire dal 600 la natura del potere cambia, non sarà più tendenzialmente o non sarà più soltanto un potere negativo, un potere di prelievo, un potere di sottrazione, sarà un potere positivo, un potere che comincerà a fare delle cose, a produrre degli effetti positivi, misurabili, ad accrescere corpi, ricchezze, quel diavolo che sia. Cioè, quindi c'è un diciamo, cambiamento, diremmo noi, di paradigma o di episteme, avrebbe detto Foucault, di le parole e le cose. Il diritto di morte tenderà da questo momento in poi a spostarsi o almeno ad appoggiarsi sulle esigenze di un potere che gestisce la vita e a finalizzarsi a ciò che queste domandano. Appoggiarsi sulle esigenze di un potere che gestisce la vita. Questa morte, che si fondava sul diritto del sovrano di difendersi o di chiedere che lo si difenda, apparirà come l'altra faccia del diritto che ha il corpo sociale di assicurare la sua vita, di mantenerla o di svilupparla. Mai le guerre sono state tuttavia più sanguinose che dal XIX secolo in poi. E anche fatte le debite proporzioni, mai i regimi avevano praticato sino a quel momento sulle loro popolazioni simili olocausti. È ovvio che si allude all'olocausto della Seconda Guerra Mondiale e allo sterminio degli ebrei da parte del nazismo. Ma questo formidabile potere di morte, ed è forse questo che gli dà una parte della sua forza e del cinismo con il quale ha portato così lontano i propri limiti, questo formidabile potere di morte si presenta ora come il complemento di un potere che si esercita positivamente sulla vita, che incomincia a gestirla, a potenziarla, a moltiplicarla, ad esercitare su di essa controlli precisi e regolazioni d'insieme. Le guerre non si fanno più in nome del sovrano che bisogna difendere, si fanno in nome dell'esistenza di tutti. Si spingono intere popolazioni ad uccidersi reciprocamente in nome della loro necessità di vivere. È la teoria nazista e tedesca del Lebensraum, dello spazio vitale. la popolazione tedesca ha bisogno di uno spazio, non Hitler, non io Hitler, non io Himmler, non io Goebbels, il popolo tedesco ha bisogno di un Lebensraum, quindi si deve pappare i Sudeti, metà della Polonia, l'Austria, perché questo è il Lebensraum. Tutto questo non viene detto perché Hitler gli va bene così e perché gli è venuto questo sghiribizzo, perché è una esigenza per la vita, per lo sviluppo della del popolo tedesco, della popolazione tedesca. Però questa è la logica di questa cosa, no? Fino al 600, fino al 1800, le guerre si sarebbero fatte per altri motivi, non con queste giustificazioni. Attenzione, non pensate che le giustificazioni ideologiche con cui si fanno le cose, per esempio anche le guerre, siano così indifferenti o così, certo che sono un trucco, ma incidono, diciamo, rivelano delle mentalità, rivelano dei modi di pensare che sono importanti per ricostruire i, diciamo, dispositivi culturali e sociali di un'epoca. Le guerre si fanno in nome dell'esistenza di tutti, si spingono intere popolazioni ad uccidersi reciprocamente in nome della loro necessità di vivere. I massacri sono diventati vitali. Come gestori della vita e della sopravvivenza dei corpi e della razza, tanti regimi hanno potuto condurre tante guerre facendo uccidere tanti uomini. E attraverso un capovolgimento che permette di chiudere il cerchio, più la tecnologia delle guerre le ha fatte volgere alla distruzione esaustiva, più nei fatti la decisione che le apre e quella che le chiude si subordinano alla pura questione della sopravvivenza. Più la tecnologia delle guerre porta alla distruzione e più il meccanismo che innesca questa tecnologia è quello di sopravvivere. Uccidere, distruggere per sopravvivere. Chiaro? È un paradosso, è ovvio, ma... La situazione atomica, non dimentichiamoci che il libro è stato scritto nel 1976, quindi in un'epoca in cui era appena finita la guerra, diciamo, del Vietnam, non era ancora finita di fatto la guerra fredda, totalmente, e diciamo, persisteva ancora a metà degli anni 70 l'onda lunga della paura, del, diciamo, terrore, della preoccupazione che tutta la mia generazione ha avuto di vivere sotto l'incubo di una distruzione nucleare perché qualche scriteriato schiacciava un cazzo di bottone e saltavamo tutti quanti per aria perché c'erano queste centinaia, migliaia di testate nucleari. La situazione atomica è oggi al punto d'arrivo in questo processo. Il potere di esporre una popolazione ad una morte generale è l'altra faccia del potere di garantire ad un'altra il suo mantenimento nell'esistenza. Il principio poter uccidere per poter vivere, che sorreggeva la tattica dei combattimenti, è diventato principio di strategia trattata, poter uccidere per poter vivere. Ma l'esistenza in questione non è più quella giuridica della sovranità, ma quella biologica di una popolazione. Se il genocidio è il sogno dei poteri moderni, non è per una riattivazione del vecchio diritto di uccidere, è perché il potere si colloca e si esercita a livello della vita, della specie, della razza e dei fenomeni massicci di popolazione. Ecco enunciata in modo molto chiaro la prospettiva della biopolitica o del biopotere. Per dirlo in un altro modo, si potrebbe dire che al vecchio diritto di far morire o di lasciar vivere si è sostituito un potere di far vivere o di respingere nella morte. Allora, è chiara? Pensiamoci bene. La formula che usa qua Foucault è, allora, la formula della sovranità tradizionale è potere di lasciar vivere e fare morire. La vita viene considerata un fenomeno naturale, se non la tocco non succede nulla, quindi io lascio vivere i miei sudditi. Quando ho una situazione particolare li faccio morire. L'unica positività, cioè l'unica mia azione positiva come sovrano è quella di dare la morte, non posso dare la vita. La prospettiva della biopolitica, del biopotere è esattamente l'opposto, è far vivere e lasciar morire. Si ha dice Foucault, una prospettiva biopolitica quando l'azione del potere consiste prioritariamente nel mettere in azione dispositivi che intervengono direttamente sui meccanismi, sugli automatismi o sui processi biologici, sui processi di messa. Adesso devo avanti, che faccio prima, se vi diciamo riassumo. Nelle pagine successive andate a sapere, e poi in numerose pagine nelle opere successive, Foucault fa, diciamo, ascendere la nascita di una prospettiva biopolitica o di un biopotere, per esempio, alle grandi campagne di vaccinazione contro le malattie infettive tra la fine del, nel corso del XIX secolo. Certamente la prospettiva biopolitica era cominciata prima, nel corso del XIX secolo, del Settecento, perché è lì che nasce il concetto di popolazione al quale è dedicato principalmente il corso al Collegio de France del 78, però poi questa prospettiva biopolitica ci impiega un po' di tempo prima di svilupparsi, e ovviamente i suoi strumenti principali sono gli strumenti di intervento in una dinamica effettivamente, adesso non trovo il cosmo, insomma ve lo ripeto, questo c'è nel corso del 78, a un certo punto Foucault spiega la differenza che c'era tra gli interventi, dice non è vero, sono state una serie di emergenze anche di tipo, sanitario anche nelle società precedenti, per esempio, dice lui, la prospettiva del colera, le grandi, le malattie epidemiche, no? Le grandi epidemie. Le grandi epidemie venivano combattute, certo, quindi c'era un intervento politico, venivano combattute, però come? Venivano combattute in gran parte a livello degli effetti. Cioè, una volta che si erano sviluppate queste epidemie, queste pandemie, allora si mettevano in atto una serie di dispositivi politici, per esempio di contenimento degli ammalati in certe zone, i lazzaretti, in modo che non infestassero, che non diffondessero il contagio nel resto della popolazione, e una serie di ma non c'era alcuna, mancava perché mancavano i saperi, però mancava anche la prospettiva politica, mancava anche l'idea di pensare a una, come dire, chiamiamola politica preventiva contro le epidemie, anche perché queste epidemie erano malattie obiettivamente che venivano, in termini di sapere moderno, in termini di biologia di biologia, in cui gli agenti patogeni restavano latenti a lungo, ma scoppiavano solo in particolari, quando si creavano particolari situazioni, e però fiorivano intorno all'origine di queste malattie, non a caso venivano da queste mitologie, dalle mitologie più palesemente infondate, quella degli untori, chi ha letto quei tifosi sa, quella di queste persone che saranno andati di volte i tipici forze di queste misteriose sostanze che producevano la peste, sino a cose a metà tra il vero e il falso, tra il fondato e l'infondato, per esempio come il ruolo dei topi, no? Allora, sono i topi che provocano, non sono i topi che provocano la peste, cazzo. I germi della peste si sviluppano per contro loro, i topi semmai hanno al posto avuto un certo ruolo in particolare situazione di c'era comunque in tutti i casi l'intervento contro l'epidemia non è, secondo Foucault, un intervento di tipo biopolitico, perché interviene a cose fatte ex post, dopo le cose sono successe, e tende a controbattere negli effetti di cose che ad agire. è diverso, dice Foucault, il caso delle grandi malattie infettive del XIX secolo, che non si configurano come epidemie, ma come endemie, cioè quindi non come malattie che hanno degli scoppi improvvisi concentrati nel tempo e all'inizio dello spazio, ma come malattie di lungo corso. Il vaiolo, per esempio, la scarlattina, non sono epidemie o pandemie, sono endemie, cioè non è che ci sono scoppi improvvisi. Il vaiolo è una malattia che c'è più o meno sempre stata, come raffreddore, insomma, diciamo, un po' più virulenta evidentemente, ma come raffreddore. Ecco, dice, quando si comincia a pensare alle epidemie è lì che c'è una prospettiva di tipo, come dire, politico. La cosa importante, insomma, fondamentale, è che, come sempre, diciamo, Foucault demistifica il ruolo apparentemente neutro e apparentemente scientifico, apparentemente là, di questi dispositivi, diciamo, di politica. È chiaro che quando nasce la biopolitica e il biopotere, esso viene presentato come un insieme di misure scientificamente fondate e tecnicamente neutre, finalizzate solo a difendere la popolazione da una serie di pericoli. E a tutt'oggi io mi rendo conto che tutti noi ancora le consideriamo così. Io stesso, una parte di me continua a dirmi, è vero, vaccinarsi contro il vaiolo serve per impedire che i bambini diano il vaiolo. Fare l'iniezione antitetanica vuol dire una cosa buona, è giusto farla, perché vuol dire... Cosa? Prevenzione. Certo, prevenzione, vuol dire così, quando casco per terra mi inchiodo il palmo della mano su un chiodo arrugginito, non mi viene il tetano, no? Ecco. Allora, non si tratta di dire che questo sia vero o giusto, sbagliato o sbagliato, quanto di riconoscere che non è stata questa la ragione principale, reale, per la quale queste misure sono state diffuse, sono state messe in atto. La ragione sostanziale, la ragione è stata che queste erano misure di sicurezza che riuscivano a fondare e a rinsaldare un legame sociale, ma soprattutto a creare un controllo politico dei governanti sui governati attraverso strumenti apparentemente neutri e apparentemente, anche quando all'inizio, e qui veniamo al punto fondamentale, a uno dei punti fondamentali del discorso foltiano, che poi può avere un interesse per noi o per me sulla questione dell'uomo artificiale e della il discorso sulla sovranità, che il sovrano sia una persona fisica, un principe, un re, un imperatore, eccetera, che per diritto divino, per storia dinastica, per una serie di motivi più strani, è sovrano, sta sopra, no? Che sia che il sovrano sia una persona, o che il sovrano sia una collettività, è la stessa cosa, che si proclami la sovranità del popolo, di questo concetto astratto di popolo che sarebbe, diciamo, sovrano. In entrambi i casi una prospettiva di sovranità è una prospettiva che vede il rapporto sociale, che nasce dalla imposizione o dalla accettazione di una legge. C'è una legge divina, umana, che diavolo che sia, una legge, una lex, no? È un punto di vista classicamente giuridico, quello della sovranità, in cui c'è una persona o una entità astratta chiamata popolo che esercita una particolare forma che si pone in un particolare rapporto giuridico con altri soggetti della società, che è il soggetto di sovranità. Il potere, diciamo, nella prospettiva della sovranità, è basato sulla prospettiva giuridica, che c'è una astrazione a livello, c'è una codificazione che dice questo è il sovrano. Una società di questo tipo ha obiettivamente bisogno di strumenti, di particolari, diciamo, strumenti per, come dico, dire, in italiano un termine meraviglioso per dire applicare la legge, che è molto migliore che non quello delle lingue italiana, francese, eccetera. Applicare la legge in inglese, vedete com'è che si dice? To enforce the law. Enforce. Enforce. Enforce, forzare, esercitare della forza. Per applicare la legge bisogna esercitare della forza. La società della sovranità, la prospettiva della sovranità, basata su un rapporto giuridico, principalmente, è una società in cui lo strumento, diciamo, che per vivere ha bisogno di una repressione, o di una repressione esercitata una volta ogni tanto dalla forza pubblica, to enforce the law, applicare con forza la legge, forzare gli altri a essere sottomessi alla legge, oppure attraverso un lungo lavoro, più lungo, ma sempre finalizzato alla stessa cosa, alla sottomissione dell'individuo alla legge, e questa sottomissione dell'individuo alla legge la si può ottenere mettendo in opera una serie di dispositivi di addestramento, dressage, addestrare i corpi a stare in una certa posizione. Addestrare i corpi a fare certi movimenti, addestrare le menti a riconoscere qualcuno come responsabile dell'autorità. È la società disciplinare. Sovranità. Legge. Tutto il lavoro di Foucault è campato, il lavoro di Foucault è indirizzato a farci vedere come queste tre categorie, che sono categorie che affondano le loro radici nella prevalenza delle società agricole e che però permangono all'inizio della prevalenza, mentre la modernità si sta dispiegando, cioè grosso modo nel corso del XVII secolo, cominciano a cambiare e danno luogo ad altre categorie. Al posto della disciplina, no, allora non al posto, che poi non è a un certo punto lo strumento della disciplina non è più utile, non è più scompare, continua, è ovvio che c'è. La nostra società ha ancora oggi delle caratteristiche di tipo disciplinare e voi siete una. Questo cazzo di posto è uno dei luoghi tipici di una società disciplinare, la scuola. Il solo fatto di pretendere che un povero bambino se ne sia 4 ore al giorno, seduto sulla sedia con le mani sul tavolo, con i gomiti, questo è già una voce finale, è una costrizione. Voi state su forza, chiunque lo faccia, sta operando il corpo degli studenti, fin da piccoli, un lavoro di dressaggio, di addestramento. Voi state addestrando il corpo di questi bambini a stare fermo. Non è vero che devono stare fermi perché devono imparare. Cosa vuol dire? Uno può imparare anche da dover sapere un ballerino cinese, imparare un caso di lui, no? Ma non è imparare, non è per imparare a stare fermi. Non devono imparare per sapere, devono imparare, ma devono imparare a stare fermi. È una cosa, un serpente che si morde la coda. Lo studente deve stare fermo per imparare a stare fermo. Deve stare composto per imparare a stare composto, deve ubbidire per imparare ad ubbidire. È tutto lì, questo è il vero valore, questo è il vero significato della scuola. Niente altro, tutto il resto è retorica, è fumo, è roba che si danno per la retorica del calcio. Ampliare la conoscenza di chi è, comunque da annullare nessuno, ampliare la conoscenza di nessuno. Né ai capitalisti, né ai burocrati. Non gli interessa, gli interesserà, gli interessa soltanto nella misura in cui l'aumento delle conoscenze genera, entra dentro certi meccanismi economici, ma non certo per l'avanzamento. Diciamo l'arricchimento e la maturazione individuale, quindi quello proprio qui alla società non è chiaro, cazzo, non ne frega nulla, è fuori dalle preoccupazioni. L'unica preoccupazione è che il soggetto sia soggetto nel senso che sia sotto, subietto, soggetto, lì, giù, fermo, buono, al posto suo, non dia fastidio, non gli vengano fili per la testa, non gli venga in testa di ribellarsi, non gli venga in testa di chiedere delle cose che non può chiedere, non gli venga in testa di fare richieste eccessive, non gli venga in testa di vivere in discussione. Dio, la patria, la famiglia, la religione, e la bontà del Presidente della Repubblica e del Capo dello Stato. A questo serve stare un po', non serve nulla, non serve nulla. L'incubo di tutti i maestri, dei ragazzi che fanno casino in classe, eccetera, eccetera, è un incubo, cioè dove sta? Perché dovrebbe essere un valore che 25 poveri cristi debbano stare immobili per 4 ore in un'età in cui dovrebbero muoversi, ruzzare, darsi delle botte in testa, strapparsi i capelli, imparare davvero delle cose come hanno imparato i bambini di tutto il mondo, da che mondo è mondo no, bisogna stare così, a guardare la maestra, fissarla, ascoltare le parole della maestra che colano come miele nelle nostre orecchie e finalmente paghiamo solo a stare fermi, e quindi questo serve soltanto per rendere difficile ribellarsi quando si è grandi, per far diventare un trauma la scoperta della necessità di non avere qualcuno che ti tiene fermo, che qualcuno ti tiene fermo. Bene, allora non è che la disciplina non compare, ma a un certo punto la disciplina diviene insufficiente. E allora la lasciamo soltanto ai casi o della scuola in cui però tentiamo di addolcirla in tutti i modi possibili, perché anche qui non pensate che la signora Montessori fosse una signora, i metodi di pedagogia permissiva sono semplicemente dei metodi per rendere accettabile la disciplina. Fare le cose ai bambini serve soltanto per dargli quelle 2-3 ore o quella illusione, quell'apparenza di autoattività che gli faccia poi accettare dall'altra parte il fatto che comunque i contenuti dell'insegnamento sono quelli che ho deciso io, e sono io il professore, sono io il maestro e sono io quelle cose, e non tu che puoi, e non tu, quelle tu allievo non sei il soggetto, che cazzo vuoi imparare con la tua testa. Ma dove sei? Da dove? Vuoi ragionare con la tua testa che non ce l'hai ancora? E sono io, l'unico che ha una testa, sono io, l'unico che può dare il concetto agli altri, sono io. Certamente sono a tanto intelligenza da permetterti di parlare un po' di rock and roll 5 minuti ogni ora o anche mezz'ora ogni ora, ecco il metronomo che so, ecco la pedagogia bellissima, ecco tutto lì serve semplicemente per migliorare la pillola, ma è la disciplina al fondo che rimane. Però quella disciplina di per sé da sola non basta, quindi va bene la scuola, va bene per quelli particolarmente turbolenti e scassa casi che mettiamo in galera o in ospedale psichiatrico, perché la devo dare anche un caso di cuore e che il giudice non vuole pure abolire gli ospedali psichiatrici, ma comunque la disciplina serve. Ma qua che cosa ci vuole, che cosa dobbiamo introdurre per davvero, per avere... Dobbiamo introdurre quello che Foucault chiama, con due nomi diversi, i dispositivi di controllo o i dispositivi di sicurezza. Sicurezza e controllo sono la dimensione, attenzione, non opposta, non successiva, complementare a quella disciplinare, complementare, Foucault lo dice molte volte. Sicurezza, territorio, popolazione si chiama il corso del 78, no? Quindi ecco, vedete che il termine sicurezza compare già. Controllo e sicurezza sono relativi ad una dimensione giuridica che non può essere quella della legge. La legge è come diritto di vita o di morte del sovrano. La legge, quando si applica, vuol dire che è già uno stato, cioè vuol dire che l'hai già infranta. La legge si applica solo quando qualcuno la viola, se no è qualcosa che... La società del controllo e della sicurezza ha bisogno di qualcosa che non sia così eccezionale come la legge. Ha bisogno di uno strumento giuridico che abbia un funzionamento più quotidiano, che funzioni sempre, non come la legge funziona solo quando la si interrompe. Questo qualche cosa che funziona sempre e non solo, c'ha un nome, si chiama norma. Le società del controllo e della sicurezza sono società normative, è la norma, cioè l'abitudine introiettata, il riconoscimento, l'abitudine ad un comportamento positivo che fa delle cose, non che non ne fa delle altre. La legge in genere è qualcosa che vieta, dice non si può fare questo, non dice che cosa devo fare, no? La norma invece dice cosa devo fare. La legge mi dice non dire bestemmie o non buttare per terra. La norma mi dice quando vedi la vecchietta in difficoltà sul marciapiede aiutala ad attraversare. No? Capite che tipo di differenza c'è? Quindi, su che cosa c'è al posto della sovranità nelle società, ci arriviamo dopo perché è un po' più complicato. Siccome c'è un pezzo nella prima lezione del corso del 78, no, nella seconda lezione del corso del 78, che spiega meglio dei nuovi dispositivi di controllo e di sicurezza in tutta una serie di campi, non solo nel campo, come dire, del comportamento puramente giuridico della legge penale, ma per esempio nel campo economico. tutto il dibattito durante il Settecento francese tra le teorie dei fisiocrati che sostenevano, che noi siamo abituati a considerare come quelli che teorizzavano l'importanza dell'agricoltura piuttosto che della manifattura, ma non è tanto questo, il fatto è che i fisiocrati Foucault li studia perché sono quelli che dal punto di vista economico, lui si spiega, sono i primi che hanno abbandonato il punto di vista disciplinare, cioè il punto di vista che vietava alcune attività economiche. La parola d'ordine dei fisiocrati, con cui ci furono polemiche per tutto il Settecento, prima della rivoluzione francese, e anche nel secolo precedente, perché Foucault è del 600, nel XVII secolo, sì, nel 600. La loro parola d'ordine era laisser faire, laisser passer, lasciar fare, lasciar passare. Che cosa significava questa cosa? Laissez faire, lasciate fare, laissez passer, sono degli imperativi, seconda persona naturale di imperativo. Foucault lo spiega facendo l'esempio di quello che c'è da fare quando per esempio c'è scarsità di una qualche quantità di tempo, diciamo, il problema della creatività, come si risolve il problema della creatività, come dire, il punto di vista economico, insomma il punto di vista della classico delle, diciamo, delle società sovrane, delle società disciplinari, era quello di intervenire per esempio vietando l'esportazione di canaglia, vietando che il grano prodotto nel paese venisse esportato in altri paesi dove diciamo il prezzo era più alto e quindi potenzialmente tendenzialmente il produttore tendeva a vendere il grano all'estero perché ci guadagnava di più, e così facendo provocava la carestia in patria, no? Ora i fisiocrati dicono no, non devi fare così, non devi vietare l'esportazione, devi semplicemente, anzi devi al contrario permettere le importazioni, devi fare in modo che la scarsità del grano della Francia ne farà aumentare il prezzo. Se tu permetti ai commercianti inglesi di vendere a te il grano che hanno più, verranno da te perché il prezzo in questo, i prezzi si stanno alzando perché a causa della carestia c'è scarsità, c'è maggiore domanda che offerta e quindi i prezzi aumentano. Quindi arriveranno di te. In una prima fase i prezzi aumenteranno, ma appena arriveranno sufficienti derrate alimentari diciamo, soddisfare la domanda, i prezzi si abbasseranno, perché c'è, questo ormai è può anche darsi che nello specifico fosse sbagliata di mia, però diciamo capite che filosofia c'era dietro diversa, cioè nell'atteggiamento dei fisiocrati, nel laisser faire, laisser passer, c'è un'idea di fondo che è quella che insomma, Foucault valorizza, ed è quella che la cosa importante non è tanto di intervenire con delle proibizioni su dei fenomeni che invece devono avere il loro corso, ma di intervenire a monte o a lato con alcuni interventi, certo, che però diciamo rispettino in qualche modo l'andamento, diciamo, che volete naturale di un certo processo, nella consapevolezza che è soltanto a livello del controllo o della instaurazione di dispositivi di sicurezza e non di interventi di tipo disciplinare che si potranno risolvere, per esempio, allora vi ho fatto questo breve esempio per farvi capire che l'analisi Foucault va su vari piani, sul piano che sono esattamente gli stessi piani che lui aveva tanti anni prima affrontato nelle parole e cose. Passaggio dalla retorica, dalle vecchie arti retoriche alla nascita della linguistica, il passaggio dalla vecchia storia naturale alla nascita delle nuove scienze biologiche, il passaggio dalle tradizionali analisi della ricchezza alla economia politica, i tre campi che lui aveva messo al centro delle parole cose per far vedere la nascita della grandi campi, sono più o meno quelli che anche negli anni successivi lui continua a studiare cercando lui qua quando cerca di fare come procedono in definitiva la disciplina e tutti i sistemi legali per parlare di questo? Suddividendo le cose secondo un codice che è quello del lecito e del vietato. E all'interno di questi due campi si tratterà di specificare, di determinare esattamente ciò che è vietato e ciò che è permesso, o piuttosto ciò che è obbligatorio. In un simile schema, il sistema della legge svolge essenzialmente il ruolo di determinare le cose quanto più sono vietate. In fondo la legge dice non fare questo, non fare quello. Cosicché il movimento di specificazione è determinato, cosicché il movimento di specificazione e di determinazione del sistema della legge si precisa sempre più proprio là dove si tratta di impedire, di vietare. In altri termini, sulla base di un'analisi sempre più raffinata del disordine, si stabilisce l'ordine, che è quello che resta. Se io vieto il disordine, ciò che resta sarà ordine e sarà quello. L'ordine è ciò che resta una volta che si sarà impedito tutto ciò che è vietato. E questo pensiero negativo che contraddistingue un codice legale. Sono pensiero e tecniche che funzionano in negativo. Anche il meccanismo disciplinare stabilisce in permanenza il lecito e il vietato. O meglio, l'obbligatorio e il vietato. Poiché l'oggetto proprio della disciplina non è ciò che non si deve fare, ma ciò che va fatto. Una buona disciplina è quella che vi dice in ogni momento che cosa dovete fare. E se si prende come modello di saturazione disciplinare la vita monastica, che storicamente è stata probabilmente uno dei primi momenti in cui si è esteso questo modello disciplinare, si vede che nella sua forma perfetta ciò che fa il monaco è interamente regolato dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina, mentre quello che resta indeterminato non è detto e perciò è vietato. Nel sistema della legge l'indeterminato è permesso, mentre nel sistema disciplinare ciò che è determinato corrisponde a ciò che va fatto, e perciò tutto il resto, essendo indeterminato, è vietato. Allora, qui Foucault fa vedere una differenza tra il dispositivo legislativo e quello disciplinare, anche se poi nel modello successivo si può dire che la disciplina si basa comunque sulla legge in qualche modo. Nel dispositivo di sicurezza non si adotta né il punto di vista del vietato né quello dell'obbligatorio. Si prende piuttosto una distanza sufficiente dagli eventi per vedere come si determinano, siano essi graditi o indesiderati. Si cercherà perciò di recuperarli sul piano della loro natura, o potremmo dire, anche se questo termine nel XIX secolo non ha lo stesso senso di quello che gli abbiamo oggi, della loro realtà effettiva. Il meccanismo di sicurezza funziona sulla base di tale realtà, si appoggia su di essa e cerca di far giocare tra loro gli elementi che la compongono. Insomma, la legge vieta, la disciplina prescrive e la sicurezza, senza vietare o prescrivere, dotandosi eventualmente di qualche strumento di interdizione o di prescrizione, ha la funzione essenziale di rispondere a una realtà in maniera tale da annullarla o limitarla o frenarla o regolarla. Possiamo scegliere il verbo, l'ultimo verbo di Jean Foucault, e il verbo è regolare. La sicurezza, il dispositivo di sicurezza, regola. Quindi, la legge vieta, ci dice ciò che è vietato, la disciplina prescrive, cioè dice quello che bisogna fare. Il dispositivo di sicurezza regola. Il dispositivo di sicurezza, come dire, sembrerebbe almeno apparentemente rispettare di più la realtà, cioè dice prendo atto di quello che succede, mi limito a intervenire in modo che gli effetti di questa realtà siano più o meno diversi. Credo che la caratteristica fondamentale dei dispositivi di sicurezza sia proprio questa capacità di regolare stando dentro l'elemento della realtà. Si potrebbe aggiungere che la legge opera nell'immaginario, perché essa immagina e trova la sua formulazione solo immaginando tutto ciò che potrebbe essere fatto e che non va fatto. Quindi la legge immagina. La legge ha come campo di applicazione l'immaginario, perché immagina una, come dire, situazione e mi dice non devi fare così, ma non, come dire, poi certo che una legge opera anche nella realtà, ma diciamo la legge in quanto tale non descrive nessuna realtà, non è in rapporto diretto con la, diciamo, realtà. Immagina e trova la formulazione solo immaginando tutto ciò che potrebbe essere fatto e che non va fatto. Quindi la legge di Foucault immagina il negativo in termini italiani. La disciplina opera per colpire in una sfera complementare alla realtà. Complementare alla realtà. L'uomo è malvagio, ha idee e tendenze cattive. Così all'interno dello spazio disciplinare si costituirà una sfera complementare a questa realtà, fatta di prescrizione, obblighi e divieti tanto più artificiali e rigorosi quanto più la realtà è tenace e dura da vincere. Quindi lo spazio in cui opera la disciplina è il complemento della realtà, cioè una sorta di realtà complementare. E infine la sicurezza, che a differenza della legge che opera nell'immaginario e della disciplina che opera in uno spazio complementare alla realtà, cercherà di operare nella realtà, facendo giocare, grazie a una lunga serie di analisi e di posizioni specifiche, gli elementi di questa realtà tra loro. Cioè, la sicurezza accetta la realtà e si limita a introdurre degli elementi per cui la realtà stessa, senza cambiare, senza sovrapporgli un modello immaginario con quello della legge o complementare con quello della disciplina, ma in virtù degli stessi elementi del dispositivo realtà cerca di trarre degli effetti positivi per l'azione del soggetto. Quindi qui c'è la realtà. arriviamo così a questa idea essenziale per il pensiero e l'organizzazione delle società politiche moderne, secondo cui non spetta alla politica il compito di far discendere nei comportamenti umani il complesso dei precetti imposti da Dio, come in fondo c'è sempre dietro l'idea della legge, che sempre in qualche maniera un'idea, diciamo, divina, dei precetti imposti da Dio agli uomini e resi necessari dalla loro natura malvagia. La politica deve giocare nell'elemento di una realtà che i fisiocrati chiamano per l'appunto una fisica, realtà fisica, la realtà materiale, intendendo con ciò che sia la politica sia l'economia sono una fisica. Quando parlano di fisica non si riferiscono a una materialità di tipo post-hegeliano, ma a quella realtà che è il solo dato su cui e grazie a cui la politica deve agire. Operare sempre nel gioco della realtà con se stessa, questo credo che intendessero i fisiocrati. Gli economisti, i pensatori politici del XVIII secolo, quando affermavano che si resta nell'ordine della fisica e che agire nell'ordine della politica significa agire ancora nell'ordine della natura. Quindi è una sorta di, come dire, rivincita o di presa d'atto di come operare all'interno della realtà. In altri termini, possiamo dire, insomma, è... Allora, che cosa vuol dire questo? E poi facciamo una pausa che sarete stanchi. Chiudo su questo concetto. Questo vuol dire che non ci sono più modelli, cioè che mentre nell'ambito della legge e nell'ambito della disciplina c'è una grande volontà modellizzatrice, c'è un immaginario che si sovrappone, una realtà complementare che viene immaginata, eccetera, vuol dire che non operano più modelli nel campo della sicurezza, vuol dire che si tiene solo più conto della realtà, ovviamente no, e che i modelli nell'esperienza delle società di controllo e di sicurezza si sono spostati di posto. Altrimenti non potremmo fare nessun discorso noi sull'artificialità e sull'artificio e sulla dimensione artificiale, mentre, come adesso vedrete nella seconda parte, possiamo farlo, secondo me. La cosa importante da capire però è dove questi modelli agiscono. Non agiscono più a livello del campo di applicazione, come faceva, diciamo, la legge classica o come faceva la, diciamo, disciplina. In fondo la legge ha bisogno di uno spazio immaginario e al limite di una situazione estrema, dare la morte al trasgressore per essere realmente applicata. La disciplina ha bisogno di uno spazio particolare in cui essere operata. Le realtà disciplinari si basano principalmente su questi spazi che Foucault ha chiamato eterotopie, che sono gli ospedali, le prigioni, le galere, i posti in cui la disciplina si applica davvero, in cui, e sono esattamente questa dimensione di complemento alla realtà di cui parlo. Le società del controllo della sicurezza sono tanto più efficaci e tanto più pericolose, quindi anche, perché la loro azione avviene nella vita quotidiana, avviene nella normalità, avviene nella realtà, avviene nell'esperienza di tutti i giorni. L'esperienza di tutti i giorni cambia e viene influenzata in maniera positiva, mentre la legge e la disciplina me ne cambiano indirettamente. Io faccio il bravo nelle società, diciamo, disciplinari, per paura di finire in galera o perché so che c'è Dio che mi guarda. Nelle società di controllo lo faccio perché sono convinto io, perché mi hanno convinto, perché mi hanno portato dalla loro parte, perché noi siamo i carcerieri più efficienti di noi stessi. Non c'è nessun carceriere così efficiente quando noi supponiamo che non sia qualcuno che ci ha ordinato di fare una cosa, ma la facciamo perché siamo convinti o perché crediamo di essere convinti. Questo è il momento in cui il modello sociale è sceso più in profondità ed è più efficace. Ecco perché le società del controllo e della sicurezza sono così efficaci, perché prendono atto della realtà e sono più capaci degli altri due modelli di mordere dentro questa realtà, il che vuol dire mordere e operare e avere influenza soprattutto prevalentemente nell'ambito delle motivazioni del soggetto. Ed ecco perché la psicanalisi è così pericolosa, perché da un certo punto di vista, poi si può fare anche un uso diverso, ma lui è semplicemente mi rattoppa la psiche perché io sia, perché sia pronto per essere inserito, per diventare un bravo cittadino, per ritornare alla normalità sociale, per essere sfruttato come lavoratore o per fare il mio dovere di consumatore. Pausa.